Giornale radio del Friuli Venezia Giulia. È morto l'imprenditore giapponese che a Udine aveva tentato di sedare una lite. La posizione del ragazzo trevigiano che gli ha dato un pugno peggiora. In vigore la nuova ordinanza anti-alcol. Illustrate dalla procura antimafia due operazioni, una della polizia locale contro l'immigrazione illegale e una della polizia di frontiera. Un traffico di cinesi senza documenti diretti in tutta Italia per essere sfruttati. Oltre 400 lavoratori in nero scoperti dalla Guardia di Finanza di Pordenone nei primi 5 mesi del 2024. 14 erano senza regolare permesso di soggiorno, i dati forniti alla festa delle Fiamme Gialle. Un detenuto con gravi problemi psichiatrici aggredisce alcune guardie penitenziarie nel carcere di Gorizia. La più grave dovrà subire un intervento a un gomito. Il sindacato Sappe, situazione insostenibile. La rete solidale presenta il secondo rapporto sulla situazione e i bisogni dei migranti in arrivo dalla rotta balcanica. Aumenta il numero in arrivo, nonostante il controllo ai confini. Società sportive. Il Consiglio dei Ministri ha prorogato di un anno il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti. Le implicazioni di questa decisione, secondo il presidente della Federcalcio regionale. Ancora buongiorno da Alessandra Zigaina e Daniele Lettige. La direzione distrettuale antimafia della Procura di Trieste ha convocato questa mattina una conferenza stampa per illustrare delle indagini compiute in collaborazione con la Polizia di Frontiera. Sentiamo di che cosa si tratta nel servizio. 8 passeri arrestati per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di persone di provenienza per lo più medio orientale, altri 9 per un reato analogo relativo però all'ingresso irregolare di cittadini cinesi. Sono il frutto di 2 distinte operazioni portate a termine in questi mesi a Trieste. L'operazione Abisso 2024 ha preso il via da informazioni su un traffico di stupefacenti lungo la pista ciclopedonale Orlec Trebiciano. Le fototrappole sistemate nei punti strategici hanno tuttavia fatto emergere un'altra realtà, il transito quotidiano su quel tratto di una 30 di persone al giorno provenienti dalla Slovenia, che confluivano poi nell'abitato di Trebiciano. Accanto ai cosiddetti camminanti, i dispositivi hanno documentato anche il passaggio di diverse autovetture. L'indagine della Polizia Locale di Trieste con la Direzione Distrettuale Antimafia ha insomma fotografato 2 fenomeni. Da un lato un flusso di persone a piedi condotto da figure che facevano da guide fino all'abitato di Trebiciano. Dall'altro una serie di veicoli immatricolati in paesi dell'Est Europa, a loro volta utilizzati per il trasporto di migranti. 7 passeri arrestati, tutti cittadini dei paesi dell'Est Europa. Percorsi e modalità diverse per l'organizzazione cinese scoperta dalla Polizia di Frontiera con l'operazione Chinese Shuttle. Le indagini, dirette dal sostituto procuratore Federico Frezza, sono partite dall'arresto di un cittadino cinese, intercettato ai controlli di frontiera mentre trasportava 4 connazionali irregolari provenienti dalla Slovenia. I successivi approfondimenti hanno accertato l'esistenza di un flusso di cittadini cinesi che a piccoli gruppi venivano fatti arrivare in aereo in paesi come la Serbia, dove entravano in esenzione di visto, per poi essere accompagnati in auto attraverso Bosnia, Croazia e Slovenia, fino in Italia. Qui venivano prelevati da connazionali che li conducevano in una sorta di centro di smistamento, una casa a Cazzago di Pianiga, in provincia di Venezia, da dove, privati del passaporto, venivano condotti alle destinazioni finali, in Italia o all'estero, destinati allo sfruttamento. 77 gli stranieri irregolari individuati, comprese donne e minori, e 9 gli arresti per favoreggiamento aggravato dell'immigrazione irregolare. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. Oggi ricorre il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, con celebrazioni in tutta la regione. Siamo andati alla cerimonia di Pordenone. Sotto la loggia, nel cuore della città, la presenza di cittadini e istituzioni, anche il comando provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone sta celebrando i 250 anni della storia del corpo nato nel 1774. La fanfara dei bersaglieri ha animato Corso Vittorio Emanuele. Durante la cerimonia è stata ripercorsa la storia del corpo ed è stata l'occasione per fare il punto sull'attività svolta nei primi 5 mesi del 2024, attività di contrasto agli illeciti economico-finanziari e all'infiltrazione della criminalità nell'economia, al lavoro nero con fenomeni purtroppo anche di caporalato. E partiamo da questo dato: nel settore del sommerso da lavoro sono stati scoperti 404 lavoratori in nero irregolari, tra i quali 14 sono risultati essere senza regolare permesso di soggiorno in Italia. Siamo con Davide Cardia, comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pordenone. C'è sfruttamento del lavoro, anche il Friuli occidentale purtroppo non è immune da questo fenomeno. Dallo scorso anno abbiamo registrato già oltre 400 lavoratori in nero, con una presenza massiccia nelle campagne, nei luoghi in cui viene svolto qualunque tipo di lavoro, e sulle strade, dove abbiamo notato che anche sui mezzi ruotati, ahimè, viaggiano persone in nero. Siete particolarmente impegnati anche nel controllare che i fondi dati dall'Unione Europea siano spesi in maniera corretta. Pensiamo ai fondi del PNRR soprattutto. Esatto, la spesa pubblica ormai è l'altra faccia della medaglia del lavoro della Guardia di Finanza. Siamo molto attenti e collaboriamo con le amministrazioni comunali a che non entrino tramite i subappalti organizzazioni criminali o imprenditori senza scrupoli interessati non a realizzare l'opera, ma ai fondi che il PNRR ha messo sul piatto. Pordenone, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel carcere di Gorizia un detenuto ha aggredito alcuni poliziotti penitenziari. A darne notizia è Giovanni Altomare, segretario del SAP del Friuli Venezia Giulia. Il detenuto ha gravi problemi psichiatrici e in passato era stato ricoverato nel reparto di psichiatria di Verona. Cinque poliziotti, dopo l'aggressione, hanno avuto un referto dai 10 ai 35 giorni di prognosi. Il più grave sarà sottoposto ad un intervento chirurgico al gomito. Il SAP denuncia anche lo stress lavorativo dovuto al sovraffollamento e i turni massacranti. In occasione della giornata internazionale per le vittime di tortura, a Trieste è stato presentato il secondo rapporto sulla situazione e i bisogni delle persone migranti in arrivo dalla rotta balcanica. A curarlo la rete solidale delle associazioni che si occupano dei migranti in transito in città. Una media di 44 migranti in arrivo ogni giorno, con un incremento di oltre il 20% lo scorso anno rispetto al 2022. Sono i numeri dei migranti a Trieste contenuti nel rapporto Vite Abbandonate, stilato da Comunità di San Martino al Campo, Diaconia Valdese, DONC, ICS, Linea d'Ombra e International Rescue Committee. 16.052 gli ingressi dalla rotta balcanica nel 2023, 12 mesi prima erano stati 13.127, e non si notano differenze nei primi quattro mesi di quest'anno, dicono le associazioni, nonostante il ripristino dei controlli alla frontiera italo-slovena negli ultimi mesi. La quasi totalità dei migranti sono uomini, solo il 4% dei nuovi arrivi sono donne, un quarto del totale sono minori, la maggior parte dei quali non accompagnati. Le nazionalità di provenienza Afghanistan, Pakistan e Turchia, in quest'ultimo caso sono soprattutto famiglie, anche con bimbi piccoli, col considerevole aumento nell'ultimo anno di arrivi dalla Siria e dal Bangladesh. Circa 1.200 le persone attualmente accolte in città dopo lo sgombero del Silos pochi giorni fa. I periodi di maggior afflusso sono, come sempre, i mesi estivi tra luglio e settembre. Chi non trova accoglienza finisce però a dormire in strada. Trieste, Lorenzo Gerlinzoni, TGR, Friuli Venezia Giulia. E ora vediamo la situazione del meteo. Il cielo è coperto sulla regione, queste le temperature registrate alle 11. A Trieste 22 gradi, il mare mosso con una temperatura di 22 gradi e 5 decimi. Pordenone 22 gradi e mezzo, Udine 23 e mezzo, Gorizia 25 e mezzo, Piancavallo 13, Sappada 14, Forni di Sopra 15 e mezzo, Tolmezzo 18 e mezzo, Tarvisio 18, Montezoncolan 11, Grado e Lignano 23 gradi e mezzo, con una temperatura del mare di 23. Queste le previsioni dell'ARPA per le prossime ore. Cielo in genere variabile con rovesci e temporali sparsi, più probabili nel pomeriggio sera. Qualche temporale potrebbe essere un po' più forte e portare piogge localmente anche intense. Venti a regime di brezza. Al via Lignano Young 7 for Education, la 4 giorni di formazione didattica per studenti e docenti focalizzata su 3 temi fondamentali: educazione alla cittadinanza globale in un'ottica di pace e dialogo, sviluppo di programmi STEM, integrazione dell'intelligenza artificiale nella didattica. L'inaugurazione è prevista alle 20:30 all'Arena Alpe Adria, alla presenza del ministro dell'istruzione Valditara, ministro che poi si sposterà a Trieste, dove da domani a sabato si svolgerà il G7 dei ministri dell'istruzione, cui parteciperanno un centinaio tra ministri e delegati da tutto il mondo. Un'occasione di confronto e di dialogo finalizzata a rafforzare la cooperazione educativa a livello internazionale. Un vertice contestato da diversi sindacati, partiti e associazioni riuniti nell'assemblea pubblica contro il G7 della distruzione, che hanno annunciato diverse iniziative che culmineranno in una manifestazione prevista per venerdì alle 18 in Piazza Libertà e che mirano a contrastare, si legge in un documento dell'assemblea, le attuali e future politiche per l'istruzione sempre più determinate da un mercato selvaggio del lavoro. Il G7, continua il documento, è centrato sull'idea che l'istruzione sia principalmente uno strumento per immettere le persone nella vita economica, al servizio servizio delle logiche di mercato. Noi invece, e la conclusione, siamo del parere che l'istruzione sia principalmente lo strumento per la piena realizzazione dell'essere umano in accordo con i principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 1948 e di tutte le linee guida degli organismi internazionali. Torniamo alla notizia di apertura. Ieri alle 22 è stata dichiarata la morte dell'imprenditore giapponese che aveva tentato di sedare una rissa. Un esempio di coraggio e di umanità, ha commentato il sindaco di Udine De Toni. Per il giovane trevigiano che gli ha tirato un pugno, l'accusa si trasforma in omicidio preterintenzionale. Nel frattempo è entrata in vigore la nuova ordinanza sugli alcolici. Il servizio. È durata 4 giorni l'agonia di Shinpei Tominaga, l'imprenditore giapponese titolare di una ditta di import-export di mobili, picchiato per strada a Udine dal branco per aver difeso un ragazzo ferito. Ieri sera alle 22 i medici dell'ospedale di Udine ne hanno decretato la morte. Tominaga nella notte tra venerdì e sabato aveva tentato di difendere un giovane straniero che si era presentato al buonissimo kebab in via Pellicerie chiedendo aiuto, inseguito da 3 giovani, tutti residenti in provincia di Treviso. Una persona riservata, silenziosa e dei modi gentili, così lo descrivono chi conosceva l'imprenditore giapponese. Intanto con la morte di Tominaga è cambiato il reato ad omicidio preterintenzionale e si aggravano le posizioni dei 5 arrestati e del 19enne veneto Samuele Battistella, accusato di aver sferrato il pugno che ha causato la morte dell'imprenditore. Adesso verrà nominato, dice il procuratore della Repubblica Massimo Lia, un medico legale per i consueti adempimenti con avviso alle porti e poi il cadavere verrà consegnato alla famiglia. Nel capoluogo friulano è stato indetto il lutto cittadino in considerazione del tragico evento che ha coinvolto l'intera comunità udinese. Il sindaco della città ha emesso un'ordinanza con cui vieta in tutto il comune la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche da parte degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali dalle ore 21 alle 8 del giorno successivo. La misura prevede un'anticipazione dell'orario per il quartiere delle Magnole, dove il divieto di vendita scatterà dalle ore 18. Pesanti le sanzioni che vanno dai 200 ai 1200 euro, oltre alla possibilità dell'immediata cessazione dell'attività esercitata e il sequestro cautelare delle bevande alcoliche. Nel caso in cui le forze dell'ordine dovessero verificare reiterate violazioni all'ordinanza, potrà essere disposta la sospensione dell'attività. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Percorsi di formazione per rispondere alla carenza di manodopera di lavoratori specializzati nel comparto. E questo è il primo punto del programma del mandato di Federica Suban, neoeletta presidente regionale della Confcommercio FIPE, Federazioni Pubblici Esercizi. Suban, presidente in carica di FIPE Trieste, prende il posto di Bruno Vesnaver e avrà come vice Fabio Cadamuro di FIPE Pordenone. Pordenone città che sorprende sarà lo slogan della candidatura di Pordenone a capitale della cultura 2027. Nel capoluogo in corso una 3 giorni intitolata Pordenone scrive il dossier. Dopo l'incontro con la cittadinanza, oggi e domani sono in programma incontri con i comuni della provincia, gli operatori socioculturali e le imprese. Il senso dell'iniziativa, ha spiegato il vice sindaco Parigi, è presentare la candidatura ma soprattutto coinvolgere in questa sfida storica tutta la città e il territorio attraverso i tavoli di lavoro con cui cittadini e operatori possono fornire idee e suggerimenti da inserire nel dossier. Il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri il provvedimento che proroga di un anno, al 30 giugno 2025, il termine del vincolo sportivo per i tesseramenti sottoscritti prima dell'entrata in vigore della riforma dello sport del 2023. Una proroga che, secondo l'esecutivo, garantirà una graduale ma definitiva entrata in vigore della nuova disciplina, tesa a bilanciare gli interessi degli atleti con quelli delle associazioni e società sportive dilettantistiche e professionistiche. Ma per capire meglio le implicazioni di questa decisione, sentiamo il presidente della Federcalcio regionale, Eros Canciani. Il vincolo sportivo è quell'elemento che teneva praticamente obbligato un tesserato con una società fino al 24esimo anno di età. Con l'introduzione della legge del Bosman è stato considerato quello che è un atleta come un lavoratore normale e di conseguenza soggetto a tutte le situazioni che praticamente si prevedono per un lavoratore subordinato, quindi il fatto di poter essere libero di scegliere dove poter andare a giocare. Le società dilettantistiche che facevano il settore giovanile si sono trovate dall'oggi al domani con un lavoro fatto alle spalle molto importante e con la possibilità che questi ragazzi tesserati prima fino al 24esimo anno di età potessero andare in un'altra società. Quindi mettendosi praticamente in linea a quello che sono i comportamenti europei, c'eravamo solo noi e la Grecia, no? Il governo ha di fatto praticamente emanato la legge 36 nel quale appunto aboliva il vincolo sportivo. Questo ha creato un sacco di malumori fra gli addetti ai lavori, soprattutto fra i vari presidenti di società. E perché? Perché non erano stati previsti alcuni ristori a favore delle società medesime. Allora, per evitare confusione, il governo ha deciso praticamente di andare a prorogare di un anno quelli che sono i termini dei vincoli sportivi previsti all'inizio della legge. Cosa cambia per le società che magari si erano già preparate a questo termine di legge? Quasi tutte le società avevano già di fatto delineato i piani per l'attività sportiva della stagione successiva. Da un punto di vista proprio così generale, diciamo che noi la vediamo di buon occhio, però dal punto di vista pratico, se l'avessimo saputo un mese prima, andava sicuramente meglio. Negli ultimi giorni il Golfo di Trieste è stato invaso dalle mucillagini, in parte spazzate via dalla bora, un fenomeno non nuovo che abbiamo approfondito questa mattina nella nostra trasmissione. Buongiorno Regione. Si vede in superficie, ma riguarda tutta la colonna d'acqua e la mucillagine che aveva invaso il Golfo di Trieste nei giorni scorsi per essere poi spazzata via dalla bora sopra una schiuma galleggiante sotto vere e proprie nubi che toccavano il fondo. Si tratta di un fenomeno naturale, di un fenomeno quindi che non ha dei contorni particolari neanche di tossicità, perché il principale responsabile è Goniaulax fragilis, un dino flagellato, quindi una specie di plancton, è semplicemente fiorito in un momento nel quale, grazie al grande apporto di acque dolci provenienti dai fiumi e quindi anche dei nutrienti che con esso arrivano, e grazie all'esplosione delle temperature estive, è fiorito in maniera straordinaria. La conseguenza di questo processo è la formazione di muco che si è aggregato in modo significativo, perché il mare era in quel periodo molto calmo, con poco vento e correnti deboli. Anche per questo risolutivo è stato l'arrivo della bora. Diciamo che il vento è estremamente importante, perché oltre a causare le onde, quindi oltre ad avere un effetto mobilitante disgregante rispetto a questi aggregati che vediamo, anche essendo il vento di bora un vento che proviene da nord, ha la capacità di spingere le acque superficiali verso il sud dell'Adriatico, richiamando delle acque profonde. Questo processo innesca un rimescolamento che è benefico in questo caso, perché è una sorta di ricambio che ci facilita nella ripresa delle condizioni normali del nostro mare. Episodi come questo si verificano da secoli, non sono un effetto diretto del cambiamento climatico, che però c'entra. È evidente che i cambiamenti climatici con l'aumento delle temperature possono rendere più acuti questi fenomeni, renderli più frequenti magari, ma la causa scatenante è sicuramente naturale. Trieste, Dario Ronzoni, TGR Friuli Venezia Giulia. Nel servizio avete sentito Saul Ciriaco, responsabile del monitoraggio dell'area marina di Miramare. A Tarvisio sono nati due cuccioli di lince, non accadeva da decenni. La mamma è una delle tre femmine rilasciate a maggio 2023 nell'ambito del progetto Ulica 2. La madre di questi cuccioli di lince è Talia, uno dei cinque esemplari liberati poco più di un anno fa nella foresta di Tarvisio. La scoperta è stata fatta dai ricercatori del progetto Lince Italia, assieme ai loro colleghi sloveni, nei pressi di Bled, a una trentina di chilometri in linea d'aria dal tarvisiano. Talia, proveniente dai Carpazi in Romania, era stata liberata in un pomeriggio molto piovoso nell'ambito del progetto Ulica 2, che punta a rinforzare la popolazione di linci nell'estremo nord-est dell'Italia. I suoi spostamenti vengono costantemente monitorati tramite radiocollare. Il fatto che negli ultimi mesi il collare mandasse impulsi dalla stessa zona e che Talia fosse in attività, non come l'animale ucciso in Austria da un bracconiere, ha fatto pensare ad un lieto evento. Due mesi prima c'era stato un incontro con un esemplare maschio pure controllato tramite radiocollare, Mika, periodo che corrisponde a quello della gestazione. I ricercatori hanno atteso un paio di settimane per rendere meno invasiva possibile la loro intrusione, poi hanno cercato la tana, che si trovava su un terreno molto accidentato, ripido e pieno di alberi schiantati. Si tratta del primo caso documentato di riproduzione di una delle linci liberate nell'ambito del progetto Ulica 2. Paolo Molinari, coordinatore scientifico del progetto, ha spiegato che il passaggio di ricercatori nella tana è assolutamente necessario, poiché senza i dati raccolti mancherebbero preziose informazioni sulla dinamica di popolazione, informazioni necessarie per fare le corrette scelte gestionali utili alla conservazione della specie.